I personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Mettetevi in guardia perché oggi raccontiamo una storia di cappa e spada, anzi direi la storia più esemplare. Parliamo di uno spadaccino e parliamo di un grande intrigo da risolvere. Un personaggio di quelli che hanno fatto la storia con la S maiuscola, una storia piena di avventure, di colpi di scena. Però la nostra soprattutto è una storia di amicizia e di onore. Sentite che bella parola, onore. La gioventù, la voglia di distinguersi fanno, diciamo, il resto del nostro racconto. Oggi vi parlerò di un ragazzo pieno di sogni, di entusiasmo, che all'impeto, che è tipico della sua età, aggiunge una qualità ereditata dalla sua terra, una terra che è diventata un aggettivo, perché la Guascogna è una terra di coraggiosi, di irruenti proverbialmente, quindi un atteggiamento guascone è un atteggiamento di chi sa affrontare la vita, diciamo, a muso duro. Oggi parliamo di D'Artagnan, quello che vi faccio sentire è il suo ritratto. Immaginatevi un Don Chisciotte a 18 anni, viso allungato e colorito scuro, zigomi sporgenti, indice d'astuzia, muscoli mascellari enormemente sviluppati, indizio infallibile dal quale si riconosce il guascone, anche senza berretto, e il nostro giovanotto ne portava uno ornato di una specie di piuma. Lo sguardo sincero e intelligente, il naso adunco ma finemente disegnato, troppo adulto per essere un adolescente e troppo giovane per essere un uomo fatto. Un occhio poco esperto avrebbe potuto scambiarlo per il figlio di un fittavolo in viaggio. Senza la lunga spada che, appesa a una bandoliera di cuoio, batteva sui polpacci del suo proprietario quando questi era in piedi e sul pelo irto della cavalcatura quando era a cavallo. D'Artagnan, insomma, ha poco più di 18 anni. La sua è una famiglia della piccola nobiltà guascona, che è una regione al confine della Spagna, che oggi, diciamo, è dissolta in tanti dipartimenti. La sua è una casata onorata, però impoverita, con solo un piccolo castello, ben poca cosa, diciamo, rispetto alle dimore nobili di tanti altri. E la grande aia, il cortile, invece di raccogliere le carrozze, ospita galline che razzolano in libertà. E invece del viavai delle dame ci sono le donne che stanno lì a spiumare i polli chiacchierando. Insomma, una piccola nobiltà anche un po' decaduta. Da questo posto D'Artagnan decide di andarsene per andare incontro alla sua vita, all'avventura. Il padre non può far altro che offrirgli pochi doni, la sua benedizione, una lettera di presentazione per il vecchio amico Treville, che oggi è il capo dei moschettieri di Francia, un ronzino come regalo e una raccomandazione paterna. È col proprio coraggio, ascoltate bene, solo col proprio coraggio che ai nostri giorni un gentiluomo può farsi strada. Siete giovane, dovete essere coraggioso per due ragioni. Primo, siete un guascone. Secondo, siete mio figlio. Non temete le opportunità e cercate le avventure. Ho fatto in modo che imparaste a maneggiare la spada, avete buona gamba e polso d'acciaio. Battetevi per qualunque ragione. Battetevi, tanto più ora che i duelli sono vietati e che quindi ci vuole una dose doppia di coraggio per battersi. Figlio mio, non posso che darvi 15 scudi, il mio cavallo e i consigli che avete appena ascoltato. Fate buon uso di tutto e vivete felice e a lungo. Insomma, quindi un padre dinamico che gli dice fai duelli, anzi falli anche perché, a maggior ragione perché sono vietati. Insomma, D'Artagnan parte, lascia il borgo un po' noioso, tranquillo, dove aveva trascorso tutta la sua vita, e va alla ricerca di grandi imprese. E quella è un'epoca molto, come dire, propizia alle avventure. All'inizio del nostro racconto siamo in Francia nel 1625. La Francia è uno dei regni più vasti, più potenti d'Europa, che in quei tempi vuol dire del mondo. Sul trono c'è Luigi XIII, sposato con Anna d'Austria, Austria, che nonostante il suo nome è spagnola, che è lì, che diciamo langue nel suo palazzo. Il re è molto distante dalla moglie perché accetta consigli lui solo dal cardinale Richelieu, che è, di fatto è il governo ombra, è quello che ha in mano le sfere del potere. Parigi è al centro di tutta la Francia e naturalmente D'Artagnan è proprio a Parigi che vuole andare, perché vuole entrare a far parte dei moschettieri, il reparto di uomini scelti e fedeli al re. E in sella al suo cavallo giallo, D'Artagnan raggiunge la taverna di Frank Meunier. Il nostro eroe sa che non farà una bella figura in groppa a questo ronzino, e siccome è uno che si scalda facilmente, quando vede dalle finestre della locanda un gentiluomo che lo sta prendendo in giro, in realtà sta prendendo in giro lui e soprattutto il suo cavallo, e gli va subito il sangue alla testa, sfodera la spada e chiede ragione di quelle risate all'uomo vestito di nero. D'Artagnan non è uno capace di tenersi gli insulti, e lo sguardo che il signore gli rivolge, che è uno sguardo di disprezzo, non fa che peggiorare le cose, e lui si lancia contro il gentiluomo. Dopodiché il gentiluomo non è tanto gentiluomo, perché i suoi amici intervengono e lo colpiscono in testa, contravvenendo a qualsiasi regola d'onore di quel tipo di scontri. D'Artagnan cade svenuto a terra e quando si sveglia scopre che la lettera di presentazione per Treville è scomparsa. Probabilmente è stato il gentiluomo a prendergliela. Lui si precipita fuori dalla locanda e vede l'uomo in colloquio con una bellissima dama bionda che era appena arrivata in carrozza, e si rivolge a lei chiamandola Milady, e segniamoci questo nome che poi rientrerà nella storia. Quando esce D'Artagnan, entrambi si allontanano, la donna in carrozza e l'uomo a cavallo, e D'Artagnan rimane a meditare vendetta. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Armato solo della sua giovane età, del suo entusiasmo e anche della sua spavalderia, D'Artagnan arriva a Parigi. Nel 600 Parigi è una città di grosse dimensioni per l'epoca, 200.000 abitanti, palazzi bianchi con tetti in ardesia grigia vicini a vie maleodoranti dove viene scaricata la spazzatura, compreso il contenuto diciamo dei pitali, che spesso viene vuotato direttamente per strada dalla finestra. Se avete letto Profumo di Patrick Susskind, ambientato un secolo dopo a Parigi, insomma, sapete a cosa mi riferisco. In questo mondo che è pieno di energia, di cattivi odori, di contrasti, arriva D'Artagnan e lui cerca fama, fortuna, e lui voleva diventare moschettiere e aveva questa lettera di presentazione che gli è stata rubata, quindi adesso il suo percorso è assolutamente in salita. Naturalmente lui non si scoraggia, si presenta lo stesso al cospetto del capitano dei moschettieri. I moschettieri fedeli al re erano contrastati continuamente dalle guardie del cardinale Richelieu, insomma questi due poteri si facevano guerra anche attraverso i loro rappresentanti militari, diciamo. Richelieu rivaleggiava palesemente col re, e le due potenze rivali che si spartivano Parigi erano proprio queste, le guardie di Richelieu e i moschettieri, e il capo dei moschettieri, un capo quasi un padre, è il signore di Treville. I suoi soldati formavano una legione di diavoli scatenati, indisciplinati con tutti, tranne che con lui. Rumorosi, avvinazzati, scapigliati, i moschettieri del re, o piuttosto quelli del signor di Treville, sciamavano per le bettole, per i passeggi, nei ritrovi pubblici, gridando forte, arricciandosi i baffi, facendo tintinnare le loro spade, urtando con voluttà le guardie di Monsignor Cardinale quando le incontravano. Poi sguainavano la spada in mezzo alla strada con mille motti di spirito. Qualche volta venivano uccisi, ma in questo caso erano sicuri d'essere pianti e vendicati. Più spesso uccidevano, e in tal caso erano certi di non marcire in prigione, perché il signor di Treville era pronto a reclamarli. Insomma, oggi verrebbe visto con sdegno un atteggiamento del genere da parte di forze legate all'ordine costituito, insomma, in anni in cui basta che un poliziotto sfiora uno e succede un disastro, qua invece, insomma, stiamo parlando di 400 anni fa, e quindi i moschettieri hanno questo fascino. D'Artagnan vuole diventare moschettiere, sa che un cenno di assenso di Treville può rappresentare la sua felicità, altrimenti bisogna tornare da sconfitti in Guascogna. Treville è gentile, ma non c'è nessuna lettera che possa, come dire, rendere più affidabile la candidatura di D'Artagnan, e quindi può solo offrire a D'Artagnan la possibilità di frequentare l'Accademia Reale. Questa è una mezza vittoria. Esce D'Artagnan e urta non uno ma tre moschettieri. Naturalmente questi gli chiedono subito di lavare l'onta con un duello, e D'Artagnan dà appuntamento a tutti e tre l'indomani davanti al convento delle Carmelitane. Sei in ritardo. Avete premura di morire? Stanno arrivando i becchini. Athos, non puoi duellare con lui. Perché no? Perché devo farlo io. Non prima dell'una. Anch'io ho un duello con lui. Con voi alle due. Diamoci da fare, allora. Non vorrai fare tardi per i prossimi impegni, no? Siete un moschettiere. Siete tutti moschettieri. Sei bravo a scegliere i tuoi avversari. O forse sei un pazzo. Vi ho cercati dappertutto. Ci hai trovati ora. Dobbiamo regolare una faccenda, o preferisci rimandare a un'altra data? No, sono un uomo d'onore. Ma credetemi, uccidervi non mi darà alcun piacere. Però il duello in teoria sarebbe vietato. Arrivano le guardie del cardinale a interrompere il duello e soprattutto a contrapporsi ai moschettieri. E le cose si mettono male. Di fronte a questa minaccia, D'Artagnan si schiera con quelli che un attimo prima volevano ucciderlo, perché c'è già in lui questo senso di fratellanza, sente di appartenere a quel corpo di combattenti. Quindi i tre uomini che fino a un momento prima erano i suoi nemici in realtà sono i suoi compagni di avventura. Quest'attimo bastò perché D'Artagnan prendesse la sua decisione. Era questo uno di quegli avvenimenti che decidono della vita di un uomo. Si trattava di scegliere fra il re e il cardinale. Fatta la scelta, bisognava perseverare. Battersi voleva dire disobbedire alla legge, voleva dire rischiare la testa, voleva dire farsi d'un sol colpo un nemico di un ministro più potente dello stesso re. Ecco ciò che passò in un secondo per la mente del giovanotto. E pur tuttavia, diciamolo a sua lode, egli non ebbe un minuto di esitazione. Volgendosi verso Athos e i suoi amici disse: «Signori, modificherò qualche parola delle vostre. Avete detto che siete soltanto in tre, ma a me sembra che siamo in quattro». D'Artagnan ha fatto la sua scelta, ha scelto l'onore con anche l'entusiasmo tipico dei suoi vent'anni non ancora compiuti, e vince, riesce a sconfiggere gli emissari di Richelieu, ferisce addirittura Monsieur de Jussac, una delle spade migliori del regno. I moschettieri, gli altri tre, vengono colpiti dalla sua bravura e anche dal suo gesto, insomma lo accettano nelle loro fila. I tre nuovi amici di D'Artagnan si chiamano Athos, Porthos e Aramis. Athos è un conte colto, intelligente, con un forte senso dell'onore, è quello che, diciamo, per statura umana supera tutti gli altri. Porthos è invece più una statura fisica, perché è alto e possente, ha tanta voglia di divertirsi, ama il vino, le donne e ama la spada e la lotta. E Aramis è il più giovane dei tre, poco più che ventenne, è bello e raffinato e oscilla tra il demonio e la santità, tra la vocazione religiosa e le belle donne. I tre accettano D'Artagnan, lo avviano ai segreti della città, gli trovano un alloggio, un servo e un futuro pieno di promesse. Gli offrono il senso di unione che questo genere di amicizie virili sanno dare. Compagnia, valori condivisi, amicizia sincera, onore da difendere. Questa unione viene sancita da D'Artagnan, che si impegna in un patto di solidarietà con i suoi compagni e esordisce con la famosa frase: «E adesso, signori», disse D'Artagnan, «tutti per uno, uno per tutti. È il nostro motto, non è vero?» «Ah, guardateli, ragazzi! Un giorno ci saremo anche noi con loro! Sì, ne sono convinto!» «Non vedo l'ora!» Dimostriamo sacrificio e fedeltà, non temiamo cattiveria e crudeltà. E questa che state sentendo è il famoso cartone animato di Walt Disney, perché una storia così bella come quella di D'Artagnan non poteva sfuggire al mondo del cinema. Ci sono stati molti film che hanno parlato dei moschettieri e anche dei cartoni animati. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Vi sto raccontando di D'Artagnan, il giovane guascone con fierezza, irruenza, entusiasmo tipici della sua terra. Il sogno di D'Artagnan era quello di arrivare a Parigi e entrare a far parte dei moschettieri del re, che il re in questione è Luigi XIII, sovrano di tutta la Francia. Luigi è sposato con Anna d'Austria da quando ha 14 anni e il matrimonio, come sempre avviene a quei livelli, in realtà è una specie di trattato di non belligeranza tra le due più grandi potenze del tempo, la Francia e la Spagna, patria di Anna d'Austria. Non vi faccia trarre in inganno il cognome, diciamo, Anna d'Austria, lei in realtà era spagnola. Bene, per un breve periodo pare che Luigi XIII abbia anche avuto a cuore la moglie imposta dalla ragione di Stato, e chi invece proprio detesta questa donna è il cardinale Richelieu, il primo ministro, il fidato consigliere del re. E insomma, sappiamo che quelli erano anni in cui, diciamo, si diventava cardinale non per vocazione, per meriti religiosi, per timor di Dio, ma per sotterfugi politici. E l'ostilità tra il re e il cardinale sarà causa di inganni a cui i nostri amici moschettieri dovranno porre riparo. Sentiamo intanto il ritratto di Richelieu, uno degli uomini più potenti del mondo. In piedi davanti al caminetto c'era un uomo di media statura, di aspetto nobile e altero, con gli occhi penetranti, la fronte ampia, un volto smagrito e ancor più allungato dal pizzo e dai baffi. Benché quell'uomo avesse 36 o 37 anni appena, capelli, baffi e pizzo cominciavano a farsi grigi. Quell'uomo non aveva spada, ma sembrava in tutto il resto un uomo di guerra. I suoi stivali di pelle di bufalo, leggermente coperti di polvere, indicavano che nella giornata era stato a cavallo. Quell'uomo era Armand Jean Duplessis, cardinale di Richelieu. E D'Artagnan non sa ancora quanto Richelieu scombussolerà la sua vita. Intanto lui si sta godendo l'immensa gioia d'avere dei nuovi amici, dei veri amici con i quali condividere le sue avventure. Athos, Porthos, Aramis, che accolgono D'Artagnan come un fratello. Anche se non è ancora un moschettiere, li immaginiamo già come fossero, diciamo, i quattro punti cardinali. D'Artagnan è l'irruenza e la furbizia, Porthos è il saper vivere, Athos è il gran signore malinconico e Aramis rappresenta lo spirito del moschettiere costantemente tentato dalla carne. Insomma, i quattro uomini sono il simbolo dei quattro punti fermi della nostra storia e forse rappresentano anche l'età dell'uomo, a pensarci bene: la gioventù, l'età del godimento, l'età dei dubbi spirituali e poi la maturità. In questa storia D'Artagnan peraltro sarà chiamato a attraversare tutte queste fasi per riuscire a raggiungere il suo scopo, cioè il suo sogno. Ma intorno in questo momento c'è chi sta tramando nell'ombra. Richelieu scopre che la regina ha uno spasimante. È un inglese, il duca di Buckingham, al quale la regina ha dato come pegno del suo amore 12 puntali di diamanti regalati dal re. Non si dovrebbero fare queste cose. Per eliminare la sovrana, il cardinale vuole aprire gli occhi al re e gli propone di organizzare un gran ballo dove la regina doveva mostrare i suoi diamanti. Il re accetta, insomma la regina è nei guai, deve recuperare assolutamente i puntali donati al buon Buckingham. E attraverso la fedele guardarobiera Costanza, la regina incarica D'Artagnan di recarsi in Inghilterra, naturalmente con i tre moschettieri, con i suoi amici, per recuperare i puntali, i diamanti. Costanza è la moglie dell'uomo che affitta le stanze a D'Artagnan, che si è innamorato di lei, e insomma sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa per Costanza. Ma non è solo l'amore che lo spinge a entrare in questa avventura pericolosissima. D'Artagnan è intelligente, però è anche troppo giovane per rimanere senza far niente e aspettare che passino i giorni. Ha un temperamento che prende fuoco subito. Cosa c'è di meglio che non avere uno scopo che promette duelli in continuazione per difendere addirittura l'onore della regina? E quindi D'Artagnan con i tre moschettieri parte per l'Inghilterra per recuperare i gioielli della regina Anna. È una lotta contro il tempo, contro le guardie di Richelieu che cercano di impedire ai quattro di raggiungere il loro scopo, e non sono gli unici a cercare di fermarli, perché nel questo quadro si inserisce anche un personaggio unico nel suo genere, una specie di, non so, di serial killer. Stiamo parlando della misteriosa sconosciuta che D'Artagnan aveva visto all'inizio fuori dalla taverna. Vi ricordate la donna bellissima Milady? E per avere una sua descrizione torniamo a quel giorno. La sua interlocutrice, di cui si vedeva la testa inquadrata dal finestrino, era una donna di 20 o 22 anni. Noi abbiamo già detto con quale rapidità D'Artagnan si impadronisse di una fisionomia. Gli bastò un'occhiata per vedere che la donna era giovane e bella. Ora, questa bellezza lo colpì tanto più in quanto che era perfettamente sconosciuta nei paesi meridionali nei quali egli aveva abitato fino a quel giorno. Era una bellezza pallida e bionda, con lunghi capelli inanellati che ricadevano sulle spalle, con grandi occhi languidi e azzurri, con labbra rosee e mani d'alabastro. E qui entriamo proprio nella parte, diciamo, feuilleton di questa storia, perché Milady intanto non è inglese, è stata chiamata così perché si era sposata con un inglese, Lord de Winter, che poi muore, direi al buon gusto di morire in fretta. E poi lei, e questo è un colpo di scena, si scopre che era stata sposata con Athos. E forse qua si spiega anche la profonda malinconia di Athos. Era innamorato lui della donna, e quando scopre che lei era marchiata a fuoco dal giglio di Francia, che allora era il simbolo di delinquenza, insomma è come avere la fedina penale sporca, e allora lui la lascia, affoga il rimpianto nel vino. Lei è una donna bella, affascinante, anche D'Artagnan non può fare a meno di essere irretito dal potere seduttivo di questa donna, che è una spia di Richelieu, una specie di matahari, ma è molto più pericolosa. D'Artagnan ha con Milady una notte di passione, ne rimane turbato però, perché il volto di Milady è angelico, ma il suo animo è nero, è deforme, è malvagio. Se D'Artagnan è il polo positivo, lei è il buco nero contro cui tutto si infrange. E nella sua corsa verso l'Inghilterra, D'Artagnan perde per varie ragioni i suoi compagni. Insomma, arriva da solo davanti al duca, che gli consegna i gioielli della regina. Però ne mancano due, rubati da Milady. Buckingham li rimpiazza con delle copie. Insomma, D'Artagnan li consegna in tempo alla regina. E allora, per ritorsione, Richelieu fa rapire Costanza, l'amata di D'Artagnan, proprio da Milady. D'Artagnan deve salvarla, sfida a duello il cognato di Milady, riesce a vincere, ottiene un colloquio con Milady e con l'inganno trascorre la notte con lei. Però l'inganno è un inganno, insomma, una volta scoperto, Milady vuole uccidere D'Artagnan, non ci riesce. D'Artagnan scopre il giglio marchiato sulla spalla della donna, perché allora si poteva anche avere delle notti d'amore senza far vedere la spalla. Comunque scompare il potere della seduzione, rimane la verità, e di fronte a D'Artagnan c'è una donna perduta. Ma dove sono finiti gli amici di D'Artagnan? Ovviamente stanno combattendo, perché intanto è scoppiata la guerra e i moschettieri sono sotto le mura della città di La Rochelle a combattere per il re. Nel frattempo Richelieu vuole risolvere alla sua maniera le cose, cioè invia Milady a uccidere il duca inglese Buckingham. Insomma, le cose che si facevano in quei tempi, alla fine, vista dal loro punto di vista, insomma, non è neanche una pensata così terribile. E il piano però non funziona. Milady viene arrestata dal cognato, che è stato avvertito da D'Artagnan. La donna viene imprigionata, sembra la sua fine, ma lei sa ancora come giocare le sue carte, perché lei sa sedurre gli uomini e sa manipolarli. Milady convince il suo carceriere a uccidere il duca al suo posto e a liberarla, ma c'è un'altra vittima della donna, perché Costanza, l'amore di D'Artagnan, viene avvelenata e muore. D'Artagnan è distrutto, non ha ancora 20 anni, ha perso il suo primo amore, è un dolore enorme che viene ovviamente soppiantato subito dal desiderio di vendetta. E anche D'Artagnan già si accende in fretta per uno spintone, figurati se gli ammazzano la amata. E in questo caso il suo scopo è evidente: deve eliminare Milady dalla faccia della terra. E il momento in cui si compie il destino di Milady inizia in un modo memorabile, che da allora è entrato nelle espressioni comuni a tutti noi. Era una notte buia e tempestosa. Grosse nubi correvano in cielo velando la luce delle stelle. La luna non si sarebbe alzata che a mezzanotte. Talvolta, alla luce di un lampo che solcava l'orizzonte, si scorgeva la strada che si svolgeva bianca e solitaria. Poi, spentosi il lampo, tutto rientrava nel buio. A ogni istante Athos invitava D'Artagnan, che era sempre in testa alla comitiva, a riprendere il suo posto, che un attimo dopo egli abbandonava di nuovo. D'Artagnan non aveva che un pensiero: andare avanti. E andava. E in questa notte buia e tempestosa D'Artagnan trova Milady, però non la vuole uccidere con le sue mani, la consegna al boia, non vuole sporcarsi le mani, poi le donne non si uccidono così. E D'Artagnan in quei pochi mesi è diventato un uomo, è cresciuto, e i fatti gli hanno insegnato insomma l'ambiguità delle cose, la loro pericolosità. Non è più un ragazzo entusiasta partito dalla casa paterna, c'è già dell'esperienza. L'irruenza diventa anche ragionamento, e è migliorato anche grazie ai suoi amici, soprattutto grazie a Athos, il saggio che sa frenarlo quando occorre. E questa nuova maturità merita una ricompensa. Al suo ritorno da questa avventura a La Rochelle viene ricevuto dal cardinale Richelieu in persona, che è costretto a nominarlo tenente dei moschettieri. D'Artagnan ha vinto, ha pagato un prezzo molto caro, ma comunque il sogno è diventato realtà. Ci sono storie di grandi amicizie che diventano complicità, diventano onore e diventano voglia di reagire alle situazioni avverse che la storia ti mette di fronte. È il caso di D'Artagnan e dei suoi amici moschettieri. Se volete segnalare delle storie che volete che io racconti, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei social, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.